333. Trippa alla corsa. Sentirete una trippa unica nel suo genere, di grato sapore e facile a digerirsi, superiore a tutte le altre fin qui conosciute. Ma il segreto sta nel trattarla con sugo di carne ben fatto e in grande abbondanza, perché ne assorbe molto. Oltre a ciò, è un piatto che non può farsi che in quei paesi ove si usa vendere le zampe delle bestie bovine rasate dal pelo, per la ragione che quella cotenna collosa è necessaria a legare il sugo. Trippa cruda, grammi 700, zampa senz'osso, grammi 100, burro, grammi 80, lardone, grammi 70, la metà di una grossa cipolla, due piccoli spicchi d'aglio, odore di noce moscata e spezie, sugo di carne quanto basta, un pugnello di parmigiano. Dico cruda la trippa, perché in molti paesi si usa di venderla lessata. Dopo averla lavata ben bene, tagliatela a strisce non più larghe di mezzo dito, e così pure la zampa. Fatto questo, trinciate minuta la cipolla e mettetela al fuoco col burro. E quando comincia a prender colore, aggiungete il lardone tritato fine con la lunetta insieme con l'aglio. Allorché questo soffritto avrà preso il color nocivuola, gettateci la trippa e la zampa condendole con sale, pepe e gli aromi indicati, ma questi ultimi a scarsa misura. Fatela bollire finché sarà asciutta. Indi bagnatela col sugo e col medesimo finite di cuocerla a fuoco lento, onde ridurla tenera, per il che ci vorranno in tutto da 7 a 8 ore. Se per caso il sugo vi venisse a mancare, aiutatevi col brodo quando sarete per servirla, datele maggior sapore col parmigiano e versatela sopra fette di pane arrostito che devono sguazzare nel sugo. Basterà per 5 persone.